Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 8 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo dell'accusa avanzata dall'antitrust europeo contro Gazprom, il colosso mondiale del gas, colosso russo, accusato da Bruxelles di abuso di posizione dominante per le sue pratiche commerciali nell'Europa centrale e orientale, con cui ha attuato una politica dei prezzi sleale e ha ostacolato la concorrenza transfrontaliera. Non ci vuole un genio, creando barriere artificiali, non ci vuole un genio per capire che questo andrà ulteriormente a creare frizioni tra Bruxelles, tra Europa e Russia, già suscitate queste frizioni forti dall'embargo russo su alcuni prodotti europei come risposta alle sanzioni decise dall'Europa per la posizione di Mosca nei confronti dell'Ucraina. Ha risposto il colosso del gas russo in una nota: Gazprom, le accuse di abuso di posizione dominante in Europa centrale e orientale rivolte a noi sono infondate. Ma vedremo, perché sappiamo che, per carità, l'inverno ce lo stiamo lasciando alle spalle, però sappiamo che circa un terzo del gas italiano arriva proprio dalla Russia, da Gazprom, un altro terzo è di matrice algerina e un altro terzo arriva invece dal nord Europa. Ancora, per quello che riguarda le notizie di carattere europeo, segnalo una crescita rivista in rialzo per la Germania nel 2015, più 1,8%, mentre continua a esserci la tragedia greca, se così mi passate la definizione, visto che oggi il vice ministro delle finanze Dimitris Mardas ha affermato che in questo momento Atene non ha a disposizione i 400 milioni di euro necessari per pagare pensioni e stipendi pubblici a fine aprile. Quindi attenzione, immaginate, io dico sempre immaginate, è chiaro che la Grecia è diversa, se l'è cercata fino a un certo punto, poi ha contribuito l'atteggiamento anche europeo, ma ha delle responsabilità enormi la Grecia in questi anni, quello che volete, però immaginate se in questo momento in Italia Roma non avesse i soldi per pagare gli stipendi e le pensioni pubbliche, gli stipendi pubblici, le pensioni dei pubblici dipendenti a fine aprile. Che cosa capiterebbe in questo paese? Tra l'altro la data cruciale a questo punto si sposta al 12 maggio, quando la Grecia dovrà restituire 750 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale. Domani, nel corso del vertice straordinario dell'Eurogruppo per la crisi e soprattutto la tragedia dei migranti, a margine, dicevo, vi sarà un incontro bilaterale tra il premier greco Alexis Tsipras e la cancelliera tedesca Angela Merkel, probabilmente per negoziare direttamente il piano di aiuti in cambio delle riforme. Di questo parleremo in apertura. Poi, come sempre, la borsa più 0,40% Milano, come Parigi, meno 0,35% invece Francoforte, Londra meno 0,50%, euro su dollaro a quota 1,07, da noi bene Unicredit più 3,30, ST Microelectronics più 3,20, Moncler più 2,70, Banco Popolare più 2,60, Pop Milano più 2,1, Intesa più 1,5, Yux più 1,30, CNH più 1%. Fronte opposto più 2,5 Tolz, più 1,50 Ferragamo, più 1,30 Enel Green Power, più 1,20 Buzzi Unicem e Atlantia, più 1% Snam e UBI Banca, e lo 0,90 lo guadagna Terna. Ancora, per quello che riguarda gli altri temi, ci occuperemo dell'Emilia Romagna, o meglio delle zone colpite, oltre che di Gazprom, chiaramente della Grecia, delle zone colpite 3 anni fa dal terremoto, che ricordo danneggiò 2 imprese su 3. Noi lanciamo anche una campagna come Radio 24, spero importante, e andiamo a trasmettere nelle zone terremotate, in particolar modo il distretto biomedicale di Mirandola. Oggi su Sole 24 Ore c'è una bella analisi in cui emerge come il distretto biomedicale di Mirandola, che è uno dei distretti importantissimi di questo paese, sia tornato a pieno regime e le esportazioni sono aumentate del 10%, sfiorando i 300 milioni di euro. Il fatturato anche lì ha fatto più 10%, a 1 miliardo di euro, e sono tornati a crescere anche gli addetti da 3.500 a 4.000. Solo il 17% delle imprese ha ricevuto aiuti, il resto si è mosso con le proprie forze, e questo deve essere un esempio non per lo Stato, che più di una lacuna ce l'ha, ma per altre regioni di questo paese, e lasciatemelo dire, anche e soprattutto alcune regioni del nostro sud. Delle volte va bene chiedere l'aiuto, va bene chiedere che vengano risolte le situazioni, perché uno Stato esiste, anche rimboccarsi le maniche fa bene, e su questo, ecco, usiamo Mirandola e Modena in generale e l'Emilia Romagna come esempio. 349 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, le altre notizie in breve. Dunque, per quello che riguarda Gazprom, abbiamo già detto, della Germania pure, il governatore della Banca d'Italia invece, Ignazio Visco, è intervenuto al Senato in occasione dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario nella prospettiva della vigilanza europea. Insomma, ha detto: il contributo di Mario Draghi, ossia del quantitative easing, dell'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea e delle banche centrali nazionali, è fondamentale per il miglioramento dell'economia. E le condizioni delle banche stanno migliorando, ma la crisi pesa sui crediti deteriorati e spesso inesigibili. Occorre informare bene i clienti delle banche che il nuovo approccio della vigilanza europea bancaria prevede il modello che abbiamo chiamato Cipro, e cioè che vengono chiamati a pagare anche i creditori, quindi non solo gli azionisti ma anche i correntisti, l'abbiamo spiegato molte volte, sopra i 100.000 euro. Ha fatto altre considerazioni Visco, ha detto che la crisi ci ha insegnato che si può fare a meno di alcuni strumenti finanziari molto complessi che possono creare al limite più danni che benefici. Poi, ecco, in questo io mi permetto modestamente di essere poco d'accordo col governatore della Banca d'Italia. Lui cita il Monte dei Paschi di Siena, dice: non ci sono stati ritardi da parte della vigilanza, se ci sono attività delittuose la Banca d'Italia ne è vittima. In generale, se mi permette il governatore, devo dire che la Banca d'Italia ha una certa sindrome da Fonzi, si può dire così, cioè mi guarda uno degli assistenti, troppo giovane per sapere cosa voglio dire, ha difficoltà a chiedere scusa o ammettere che ha sbagliato. Cioè, voglio dire, adesso io, uno, sul Monte dei Paschi di Siena, è vero che questi hanno nascosto le perdite per quello che riguarda i derivati Alexandri Santorini, però insomma bisogna anche una domanda, un minimo di autocritica. Io sull'attività degli ispettori me la farei, vale anche per la Popolare Etruria Lazio, vale per la Cassa Marche, vale anche per alcuni atteggiamenti secondo me di alcune banche popolari non quotate. Cioè, non è che la Banca d'Italia possa solo dire noi hanno nascosto. Cioè, l'investigatore di solito investiga perché qualcuno nasconde. Che investigatore è? Uno che investiga qualcosa che è pubblico sul tavolo. Cioè, allora, io non faccio il lavoro di Visco, ci mancherebbe, ma sentire ogni volta che la Banca d'Italia si tira fuori da tutti gli scandali bancari di questo paese perché dice a noi hanno nascosto, siamo vittime, ho capito, è come un poliziotto e un commissariato o una caserma dei carabinieri che dice i malviventi avevano nascosto e occultavano la loro attività e noi cosa potevamo fare? E ti chiami polizia e carabinieri per questo motivo, perché sennò basta un normale cittadino. Allora la Banca d'Italia, un minimo di autocritica sulla capacità di essere incisivi dei suoi ispettori potrebbe anche farla, caro governatore Ignazio Visco. Se no, questo vuol dire che se qualcuno inizia a truccare i conti, nascondere le perdite, come hanno fatto i mitici manager del Monte dei Paschi, faccio notare che Mussari era presidente dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, cioè non è che fosse uno sconosciuto banchiere di provincia e ti sfugge l'attività di una BCC locale. Si chiamava Monte dei Paschi, si chiama Monte dei Paschi ed era la terza banca o quarta banca italiana, vado a memoria, per capitalizzazione. E dai, su. Di piuttosto che l'attività di vigilanza non sta funzionando come dovrebbe perché vi mancano gli strumenti, ma non è che puoi dire sempre che siete vittime. Temo che non riceverò l'invito dalla Banca d'Italia quest'anno il 30 maggio. Andiamo avanti. Comunque, per quello che riguarda i dati sul fatturato dell'industria italiana, a febbraio il dato è buono, più 0,4% sul mese, però è ancora sotto il livello di un anno prima e quindi meno 0,9% sull'anno precedente. In progresso gli ordinativi del 2% sull'anno, sperem, perché quando gli ordinativi salgono di solito è un segnale anticipatore che sale anche il fatturato. L'Emilia-Romagna, dicevo, il biomedicale che risorge è una bella e positiva notizia di chi si sa muovere senza aspettare lo Stato, ma non perché lo Stato non serva, perché non si può sempre chiedere aiuto allo Stato. Lo Stato poi arriverà, ma intanto... sì, ecco, mi scrive un ascoltatore: bello parlare quando si hanno i soldi in tasca, vuoi mettere Mirandola con Pizzo Calabro Gela? Sì, però no, abitare a Pizzo Calabro Gela non può neanche essere una scusa per aspettare sempre che qualcun altro ti risolva i problemi, ok? Perché se lei mi fa parlare ancora un altro po', poi divento sgradevole e mi tocca ricordare le differenze tra la ricostruzione del terremoto in Friuli e la ricostruzione del terremoto in Irpinia, ok? Allora evidentemente c'è un diverso atteggiamento. Poi siccome il programma si occupa di economia, restiamo sull'economia, ma non andiamo oltre, per cortesia. Allora, le vicende critiche invece della nostra impresa, la Prysmian, oggi insomma bloccata la strada statale 81 Piceno a Prutina all'altezza dello stabilimento di Ascoli Piceno. La Prysmian, l'ex Pirelli Cavi, e lì produce, ha una fabbrica, la fabbrica Ascolana, e ha annunciato, devo dire a febbraio, e ha ribadito la scorsa settimana la chiusura della fabbrica. Il blocco è stato rimosso dopo la convocazione di un tavolo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministro Federica Guidi ha convocato il tavolo per mercoledì 29 aprile alle ore 11. Non so, anche qui mi sembra che i tavoli vengano convocati ogni volta che si bloccano le strade, ma non si riesce a convocarli un po' prima. Vale per la Prysmian, vale per la Whirlpool, cioè o queste crisi, magari è vero, magari queste le aziende, i gruppi comunicano all'ultimo minuto, o se no forse il ministero si è fatto prendere un po' in contropiede, lo dico con massimo rispetto per il ministro Federica Guidi, però i tavoli vengono sempre convocati dopo i blocchi, ecco, magari potrebbero essere convocati prima che si arrivi a un blocco. Immagino che il ministero abbia la mappa delle situazioni di crisi, per cui allora no, c'è un ascoltatore che dice: guardi che l'unico che ha la sindrome di Fonzi è lei, Barisoni. E vabbè, ci sta. Prysmian, comunque, molto perplesso il sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli, che questa mattina ha partecipato anche lui al blocco stradale e è intervenuto al microfono della nostra Anna Marino. Tra l'altro perplesso perché dice che il sito di Prysmian, dell'ex Pirelli Cavi di Ascoli, presenta un buon andamento della produttività. Lo stabilimento di Ascoli, per questo parlo di questione eccentrica e paradossale, era tra i pochi che nel gruppo presentava produttività. Come mai si è arrivati a questo punto e adesso quali saranno i prossimi passi? La nostra richiesta è quella di soprassedere alla chiusura dello stabilimento produttivo che non aveva saturato le ore di ammortizzatori sociali, al contrario di quello che si faceva in altri stabilimenti. Quindi noi chiediamo una modifica del piano industriale in maniera tale che i sacrifici si distribuiscano fra tutte le aziende del gruppo, quindi anche quelle in Puglia e in Campania, attraverso anche il coinvolgimento di tutti gli stabilimenti del gruppo che hanno, devo dire, manifestato anche solidarietà rispetto all'idea di poter distribuire i sacrifici benefici fra i vari presidi della Prysmian. La cosa assurda è che la Prysmian sta ricevendo finanziamenti del governo importanti e significative su alcune linee produttive e invece smantella stabilimenti, quindi bisognerebbe anche capire se la politica industriale del governo Renzi va nel senso di rendere meno paradossale anche il sostegno a gruppi imprenditoriali che invece su altri settori, ahimè, fanno abbassare la scure sul collo degli operai. E visto che parliamo di crisi aziendali, lunedì prossimo si terrà sempre al Ministero dello Sviluppo Economico il primo vertice sulla vicenda Whirlpool, dopo che il gruppo che ha rilevato il controllo di Indesit ha annunciato la chiusura del sito di Caserta nell'ambito di un piano di ristrutturazione che prevede 1.350 esuberi. Il ministro Guidi ha detto che il governo è già al lavoro e nelle prossime ore, tra l'altro c'è un incontro che è iniziato alle 16, incontrare le altre, tutte le parti in vista poi di arrivare comunque, non dico con un accordo, ma con una situazione più chiara nell'incontro di lunedì. Il governo farà tutto il possibile. All'esecutivo, ha continuato il ministro Guidi, non piace quella parte contenuta nel piano di Whirlpool. Poi c'è una notizia in cui praticamente l'amministratore delegato di Whirlpool Castiglioni, a margine di un'audizione al Senato, ha detto: noi investiremo 30 milioni di euro sul sito di Napoli e questo fa parte di un investimento ulteriore rispetto ai 500 milioni previsti dal piano di investimento. È nostra intenzione continuare a operare in Campania. Vedremo poi lunedì cosa potrà dire sull'altro stabilimento di Whirlpool. Mentre per quello che riguarda la vicenda Alcatel-Lucent, oggi sempre il ministro, dopo un incontro tra il ministro dello sviluppo economico Guidi e il presidente amministratore delegato di Alcatel-Lucent Italia Roberto Loyola, è stato smentito il rischio di chiusura per lo stabilimento di Trieste, di cui l'azienda ha invece confermato il valore strategico. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo al primo tema, la Grecia. Ormai il governo non ha i soldi per pagare pensioni e stipendi del pubblico impiego di fine aprile. Allora, per quello che riguarda le finanze a disposizione del governo Tsipras, sono sempre più esigue e appunto servono 400 milioni per pagare pensioni e stipendi pubblici. Domani incontro con Angela Merkel, a margine dell'incontro europeo per l'emergenza migranti. Quanto valgono i debiti della Grecia? Valgono 322 miliardi di euro circa. Il 10% sono in mano al Fondo Monetario, l'8% sono prestiti della Banca Centrale Europea, il 62% sono finanziamenti degli Stati europei attraverso il Fondo Salva Stati e prestiti paese su paese bilaterali, un altro 17% ce l'hanno gli investitori privati. La Germania ha prestato 60 miliardi, la Francia 46, la Spagna 26, noi 40. Praticamente noi abbiamo prestato ogni italiano, circa 400 euro ai greci. Allora, Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Come si tiene assieme una dichiarazione del vice ministro delle finanze Dimitris Mardas È difficile dire una dichiarazione di Mardas, però la Grecia deve trovare tra i 350 e i 400 milioni di euro per pagare gli stipendi e le pensioni di fine aprile. Questa è una dichiarazione di Mardas. E dall'altra parte il fatto che il ministro dell'economia Georg Tatakis abbia detto un fallimento della Grecia è fuori questione, scatenerebbe un'enorme instabilità nel paese con effetti molto negativi, che fa il paio con quanto detto ieri da Juncker, presidente della Commissione Europea: escludiamo la Grexit, l'uscita della Grecia dall'euro e il fallimento greco. Perfetto. Come si tiene assieme tutto, però? Effettivamente c'è un po' di, come dire, voci discordanti all'interno di questo esecutivo. Tra Statakis, che è appunto un professore di economia, che comunque è quello che è più vicino a Varoufakis e al premier Tsipras, darei più rilievo a questo, perché Mardas vede solo l'aspetto legato a una singola questione, che sono appunto quello delle pensioni. In realtà, con l'accentramento che il governo ha fatto della tesoreria, quindi ha centralizzato tutte le riserve degli enti locali e delle società statali, hanno incassato 2,5 miliardi di euro proprio in questi giorni, cioè l'hanno praticamente confiscati. Cioè hanno obbligato tutte la liquidità, il contante che era presente nei vari enti locali a portarlo ad Atene. Esatto, quindi adesso Atene... Quanto vale in tutto, scusa, 2? 2,5 miliardi di euro. Tutto questo naturalmente dà fiato proprio per pagare gli stipendi. Allora non è vero che non ci sono i 400? No, assolutamente. I greci fanno un po' i greci. Un po' di tragedia la mettono sempre. In questo poi diventano anche meno credibili. Attenti a credere al lupo al lupo. Quindi nelle casse dello Stato greco ci sono 2 miliardi e mezzo di liquidità che hanno prelevato, diciamo, dagli enti locali, e quindi gli stipendi e le pensioni verranno pagate. Esattamente, c'è un po' un discorso negoziale in questi termini. Infatti i tedeschi, che sanno benissimo che la liquidità per ora c'è, sanno che il braccio di ferro non verrà risolto il 24 aprile a Riga, in questo Eurogruppo. No, ma infatti a Riga nessuno si illude che possa essere risolto. Si parla della data del 12 maggio perché lì la Grecia deve rimborsare, se non ricordo male, 720 sì, esatto, milioni, cioè 200 milioni al primo e poi 750 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale, e quelli iniziano a essere tanti soldi, a maggior ragione perché non ci vuole un genio per capire che se tu devi pagare 400 milioni ogni mese per stipendi e pensioni, esatto, e hai 2 miliardi e mezzo reperiti appunto confiscandoli agli enti locali, riesci a pagare le pensioni forse e gli stipendi per 6 mesi, se te ne levano 7,50 però chiaramente i mesi si riducono a scarsi 4, e quindi la situazione è obiettivamente delicata, al di là della tattica e un po' di drammaturgia che viene messa. Esatto. Vorrei capire altri due aspetti però, Vittorio, dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Radio 20, di Focus Economia su Radio 24, anche per scrivere su Facebook. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Buon pomeriggio da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo, gli ascoltatori di Radio 24. Ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia. Nelle prossime ore il tempo rimarrà nel complesso buono, anche se con qualche nuvola in arrivo sulla Sardegna e un po' di velature che raggiungeranno anche le regioni di nord-ovest e l'Italia centrale. Domani nel complesso sarà ancora una giornata buona, però con un po' di variabilità in più, qualche nuvola di passaggio sulle isole maggiori, sulle regioni centrali, qualche velatura al nord, tra l'altro su Toscana, Umbria e Lazio non escludiamo anche qualche locale piovasco, lì la nuvolosità infatti soprattutto nel pomeriggio sarà un po' più compatta ed estesa. Qualche locale temporale anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, ma in forma sporadica e occasionale. Chiudiamo con le temperature, clima sempre mite, valori sopra la norma, domani massimi intorno ai 24-25 gradi. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale su trebimeteo.com. Focus Economia. Di 7:36 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, Vittorio Darold, sulla Grecia, vediamo di capire una cosa. Al di là dei pagamenti, delle pensioni, perché tu facevi notare giustamente che i soldi, la liquidità c'è per questo mese e poi c'è la scadenza del 12 maggio con 750 milioni di euro di rimborso. Però, quello che ci chiedono molti ascoltatori, dopo tutto questo calvario per i greci, ma anche per gli europei, nel senso che ci occupiamo di Grecia dal 2010. Io l'ho sempre detto, personalmente ritenevo che si dovesse fare allora un bel piano di salvataggio, costava 300 miliardi, abbiamo bruciato 1.600 miliardi a quel tempo di capitalizzazione di borsa in Europa per via dell'attacco speculativo all'euro, allo spread e quant'altro. Le manovre, si faceva un bel salvataggio nel lungo termine, una scadenza lunghissima, e si obbligava, si commissariava di fatto il paese, però lo si teneva in vita e lo si faceva ripagare col tempo. 300 miliardi si possono fare, non sono una cifra, pensate che insomma la BCE sta comprando 60 miliardi di titoli di Stato al mese e vogliono avere in Europa 300 miliardi per prendere il debito greco e dire ok, lo garantiamo noi e tu intanto per i prossimi 20 anni pagherai queste scadenze e ti commissariamo il paese. Però non si arrivava né a Tsipras né a Varoufakis, che, voglio dire, per carità, uno può pensare come vuole, ma è ovvio che hanno estremizzato giustamente dal loro punto di vista le posizioni politiche. Detto ciò, a distanza di 5 anni che ci siamo grazie alla rigidità tedesca, infilati in questo cul-de-sac, dove, come si sa, per uscire ci vuole un sac de cul. Mi dici a che punto siamo col debito greco? Esattamente, guarda, siamo a 322 miliardi di euro. Nel 2010 la Grecia aveva 359 miliardi di euro. Vuol dire che non siamo riusciti a scalfire minimamente. Perché? Perché la Grecia è andata Oddio, il 10% in meno. Spagna. Però c'è stata l'austerity, c'è stata il PIL che è crollato e quindi il rapporto è diventato un disastro, siamo al 177%. Sì, perché come spieghiamo sempre anche per l'Italia, non conta solo il valore nominale, il valore del debito, perché quello che conta è rapporto o fratto, come si diceva a scuola, il PIL. Se il tuo debito scende anche a 320, da 350, ma il tuo PIL fa meno 7, è ovvio che questo rapporto debito-PIL schizza al 170%, quindi non solo non hai ridotto in maniera significativa il debito, ma nel frattempo hai ammazzato il paese, che è quello che vorremmo evitare come purga tedesca anche al resto d'Europa, hai ammazzato il paese e quindi il tuo rapporto debito-PIL continua a salire, un po' come avviene per l'Italia, visto che è passato al 132% dal 128%. Perché gli errori sono stati 2013-2014. Cioè, quando tu hai un problema con un paese, cosa fai? Allora gli vai in soccorso, il Fondo Monetario è il massimo esperto di crisi internazionali, ha salvato praticamente Russia, l'Indonesia, ha salvato praticamente tutti i paesi che avevano dei problemi, il Messico, no? La tequila, ti ricordi? A un certo punto cosa fanno? Danno dei prestiti subito, poi danno una ricetta che è quella dell'austerity, cioè quella di mettere un po' di conti in ordine, e poi fanno un taglio, l'haircut, cioè prendono il debito e dicono bene, adesso lo riduciamo, perché quel debito qui sennò non si riesce mai a pagare, perché più lo paghi. E a dire il vero, il debito greco è stato ridotto del 50%. Ma non nel 2010, nel 2010 venne lasciato tutto come era. Ah, certo. E allora solo nel 2012, quando la Merkel aveva già fatto tutte le elezioni, ti ricorderai, quelle tutti regionali, i danni possibili, allora l'aveva già fatto. A quel punto però noi che avevamo un'esposizione di soli 7 miliardi di euro tutti in mano a privati, perché quello che è importante, oggi ne abbiamo 40. Ecco, importante capire, nel 2010 c'erano 360 miliardi di debito greco, sì, ma chi ce l'aveva in mano il debito greco? Era tutto praticamente in mano ai privati, sostanzialmente era un debito che poteva essere in qualche modo... naturalmente con una sedendosi intorno a un tavolo e poi ristrutturato, cosa che è avvenuta ma soltanto nel 2012. 2 anni in più hanno portato a un crollo totale del PIL, perché naturalmente l'economia ha preso una spirale di austerity, perché crollavano gli investimenti, crollavano i salari, crollavano tutto, e a questo punto non si è più riusciti a farlo ripartire. Tutto il debito adesso è in mano per l'80% agli istituzionali. Cioè la genialata di Angela Merkel e dei suoi stati satelliti, col massimo rispetto, però votano sempre e comunque, come dice la Germania, stati alleati, chiamiamoli così. forse più satelliti che alleati. Comunque, detto questo, è stata a dire nel 2010, come ricordiamo, no, non è detto che tutti i paesi restino nell'euro. Bene, così poi è partita la speculazione contro Portogallo, Irlanda, Spagna e alla fine anche Italia. Alla fine hanno capito che si stavano bruciando il dito col cerino e hanno detto no, guardate che l'euro lo salviamo. Mario Draghi è intervenuto, ha detto farò qualunque cosa, e lì ha bloccato la speculazione. Ma intanto erano passati 2 anni, la Grecia si era fermata, ma nel frattempo il secondo asse di questa genialata è stato che il debito che prima era in mano per l'80% ai privati è stato trasformato, e quindi obbligazioni greche comprate da privati soprattutto, ma non solo, a obbligazioni bancarie greche in mano ai privati, adesso ce l'hanno in mano gli stati, con la conseguenza che poi l'Italia, adesso la Germania ha 60 miliardi, la Francia 46, l'Italia 40, la Spagna 26. Quindi a questo punto hai scaricato dal privato, magari hai fatto un favore alle banche tedesche, che erano molto esposte con la Grecia. E no, perché poi bisogna dire a tutti, perché qua non è che ci sono i popoli del nord che sono tutti belli puliti e i popoli del sud che sono sporchi e cattivi. Ti ricorderai che proprio la Banca Centrale Europea a quell'epoca, con Trichet, cominciò ad acquistare i titoli della Grecia, che erano proprio in mano alle banche, soprattutto francesi e tedesche. E quindi, per una strana situazione, la Banca Centrale Europea fece una specie di anticipo di quello che poi sta facendo adesso, ma proprio sulla Grecia. E quindi permise alle banche francesi e tedesche, che ne erano piene, di passare, diciamo, il cerino proprio alla Banca Centrale Europea, che le acquistava in una maniera forsennata, e questo ha permesso di trasformare un debito. Quindi hai socializzato il debito greco e privatizzato gli utili, perché attenzione, le banche tedesche anche e francesi erano le due più esposte, che avevano comprato titoli greci, su questi ci guadagnavano, perché pagavano un bel rendimento i titoli greci a quel tempo. Quindi finché hanno potuto ci hanno guadagnato. Poi hanno messo in campo i loro governi molto sensibili, quello tedesco alle banche, perché poi parliamo di quello italiano, ma andate a vedere quante banche ha salvato il governo Merkel, dalle banche locali, le casse di risparmio locali, alla Deutsche Bank, alla Commerzbank, no, perché poi tutti bravi a dare lezioni agli altri in questa Europa. E vediamo. E poi sono anche riusciti a sostanzialmente fare un favore alle banche tedesche, e l'esposizione adesso è tutta dei cittadini dell'area euro che ringraziano. Dimmi, secondo te, visto che tanto a riga non si arriverà a nessun tipo di accordo, oggi la Banca Centrale Europea, secondo vari giornali, avrebbe alzato di 1,5 miliardi il tetto alla liquidità di emergenza a cui possono accedere le banche greche, cioè le banche greche in caso di emergenza hanno un conto corrente aperto di 75,5 miliardi di liquidità nella Banca Centrale Europea. Dimmi quando e con che tipo di caratteristiche si potrà arrivare a un accordo, perché ripeto, il 12 invece maggio è una data, la data è fondamentale. Quei 750 milioni la Grecia li deve pagare, se no va in default tecnico. Sì, esattamente. Effettivamente il vero problema sono le banche, come dicevi giustamente tu. A febbraio la Banca Centrale Europea ha bloccato la linea ordinaria di finanziamento, cioè le banche greche non possono più andare a Francoforte, mettere come garanzia, come collaterali, il debito sovrano greco, perché non c'è un negoziato. E quindi non possono, non valgono, e quindi non sono accettati. A questo punto deve andare questa linea di emergenza, che però costa di più, è molto più costosa ed ha un tetto che viene discusso ogni settimana. E passa attraverso una garanzia che oggi il New York Times dice che i collaterali vengono tagliati al 50%, però la BCE ha smentito, non è vero. Allora, ci sono due possibilità: o al di là del fare la faccia feroce, come dicono a Napoli, Angela Merkel capisce che di nuovo il cerino si sta accorciando e rischia di bruciarsi pure lei, e domani con Tsipras, a fronte di dichiarazioni formali, di intenti, di buona volontà, accetta, perché ho torto collo, meglio così, oppure si va al muro contro muro. Esattamente così, cioè le richieste in sé sono veramente poca cosa, cioè gli chiedono di portare alcune fondi pensioni che sono ancora, non hanno più 65 anni, e alzare l'IVA nelle isole, che è un'IVA ridotta, perché viene considerata un'area turistica che va a favore. Esattamente il contrario, nel senso che le isole greche sono quelle che stanno meglio rispetto oggi ad Atene o comunque alla terraferma. Ma comunque un aumento dell'IVA verrebbe visto da Sì, anche da qualche Tsipras. Fattura in più nelle isole, sì. No? No, qualche ricevuta, lo dico perché insomma sì. Mi permetto di dire che i greci hanno le caratteristiche abbastanza... Esattamente, però insomma questo è il termine dove Tsipras si oppone perché non vuole aumentare l'IVA perché la ritiene una misura recessiva, cosa che peraltro è così, ma insomma ci dovrebbe trovare un compromesso, non pare che sia così difficile perché stiamo parlando di alla fine di 7 miliardi, mm-hmm. perché questa è la quota. Allora che cosa faranno? Dovranno tutti e due trovare un compromesso, magari un po' di privatizzazione, magari un po' di flessibilità sul mercato di lavoro, in cambio magari non si tocca l'aumento dell'IVA e forse troviamo un accordo appunto soddisfacente. In caso contrario è possibile anche che il governo faccia scelte appunto di quel tipo, cioè non pagare il fondo monetario. A quel punto si apre veramente una terra incognita, perché nel momento in cui tu non paghi un fondo monetario hai 30 giorni, un periodo di grazia si chiama in termini tecnici, dopodiché il fondo monetario ti blocca qualsiasi tipo di finanziamento e tu come banche anche non hanno più accesso a qualsiasi tipo di altro credito, perché è una valanga che poi è difficile fermare. Questo sarebbe veramente lo scenario peggiore. Allora grazie intanto a Vittorio D'Arol del Sole 24 Ore. Rispondo, ma volentieri, non c'è polemica a chi dice ma basta parlare di Grecia. Attenzione, la variabile unica, o meglio, la principale, che può rompere il meccanismo perfetto che si è creato, basso prezzo del petrolio, euro ancora basso, comunque vicino alla parità sul dollaro, quantitative easing di Draghi. Ecco, quello che può andare storto è proprio il caso greco, e la settimana scorsa ci siamo accorti come, a fronte di un'improvvisa riprendersi del timore, il nostro spread da 107 nell'arco di pochi giorni è tornato a 140. Niente di grave, ma attenzione, perché noi non parliamo della Grecia solo perché è uno stato europeo, ma perché se lì butta male i cocci li prendiamo anche noi. Cocci, gli schizzi, quello che volete come immagine figurata, traffico e poi la borsa. Focus Economia. Sette 51 minuti di nuovo in diretta. Allora la borsa più 0,32% Milano, più 0,36 Parigi, meno 0,60 Francoforte, Londra meno 0,50, l'America più 0,20%, tra i titoli UniCredit più 3,37%, Estima Electronics più 3, Moncler più 2,60, Banco Popolare più 2,5, Pop Milano più 2, Intesa San Paolo più 1,30, UX più 1,20%. Fronte opposto, Tod's meno 2,60%, Ferragamo meno 1,70, Buzzi Unice meno 1,30, Ubibanca pure, e anche Snam Atlantia meno 1,20 come Enel Green Power, Terna meno 1% come Enel e Luxottica. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, a me sembra una giornata speculare, nel senso che è opposta rispetto a quella di ieri, no? Diametralmente opposta. Cioè, oggi il lusso ha qualche realizzo e le banche hanno qualche guadagno. Sì, ci si sta, diciamo, muovendo in maniera laterale, aspettando con gli occhi puntati su Riga, sull'appuntamento dell'Eurogruppo venerdì, e con l'attenzione ai passi avanti o ai passi indietro che si fanno sull'accordo con la Grecia. E quindi i movimenti del settore rispecchiano un po' quello che tu riflettevi, anche se va comunque notato che Milano infila la terza seduta di rialzo consecutiva, quindi un po' un piccolo recupero dopo quel finale di settimana scorsa abbastanza preoccupante, soprattutto per il settore finanziario, che oggi invece è stato tra i protagonisti positivi. Ancora, dunque, vedo che alcuni mi dicono che sono cinico e irrispettoso nel ragionamento sui greci. No, non mi sembra. Abbiamo criticato anche il modo in cui le banche tedesche e francesi sono state salvate dall'operazione messa in campo, per cui il debito adesso ce l'hanno gli altri europei, di Siemens e dei rapporti dei sottomarini venduti dai tedeschi alla Grecia, abbiamo detto decine di volte, senza i missili, delle tangenti. Pure, cos'altro dobbiamo aggiungere? Non mi sembra che ce l'abbiamo coi greci. Qualcuno mi dice, lei parla di commissariamento di uno Stato con tanta superficialità. No, ho detto solo che era meglio pagare noi e garantire il debito greco e poi chiedere commissariamento di fatto, cioè un piano strettissimo alla Grecia, ma intanto la tiravamo fuori dalle paste, e soprattutto non con i tempi mortali che le sono stati dati. Infatti il dato, alla fine quello che contano sono i fatti. Dopo 5 anni che ci smazziamo la Grecia è messa peggio di 5 anni fa, il debito è più alto, il PIL continua a non crescere e il debito come valore nominale è rimasto sostanzialmente a 330 miliardi, con l'aggravante che è passato in mano agli stati e non più ai privati, cioè alle banche. Se vi sembra un gran risultato da Blitzkrieg, pensatela così. Andiamo avanti con Andrea Fontana, invece Unicredit. Oggi è stata la migliore dei bancari, ha guadagnato il 3,4%, è in una fase di buon recupero il titolo, diciamo l'ipotesi che oggi l'ha spinta tra i migliori è stata quella di alcune operazioni straordinarie per migliorare l'efficienza e anche per i coefficienti patrimoniali della banca. Primo fra tutti, secondo qualche casa di investimento, la possibile quotazione della controllata tedesca KfW, Bank, che potrebbe portare capitale importante per l'istituto, e su questo il titolo si è mosso. Andiamo dopo su Pininfarina e altri titoli. Pininfarina molto forte oggi, e poi diciamo del lusso, però adesso c'è il GR24 349 238 6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento di borsa. Dunque, Andrea Fontana, dicevamo di titoli più sottili ma che oggi si sono distinti, e mi riferisco per esempio a Pininfarina più 11,40%. Sì, il balzo è dovuto al fatto che l'accordo con gli indiani di Mahindra, che potrebbero diventare i nuovi azionisti di riferimento della società di design automobilistico, sembra ormai alle porte, il mercato ci crede, e lo stesso presidente di Pininfarina, Paolo Pininfarina, il presidente del gruppo, ha detto che potrebbe arrivare l'accordo entro la fine del mese, cioè entro l'assemblea degli azionisti del 29 aprile, quindi questa scommessa ha spinto il titolo, come già era successo nelle settimane scorse quando si era diffusa l'indiscrezione di questo gruppo indiano pronto a rilevare la società torinese. Vedo che oggi ci sono stati realizzi su alcuni titoli, mi riferisco per esempio a Buzzi Unicem meno 1,33%, Cementir però è salita? Cementiere è salita per una buona parte della seduta, poi ha ripiegato, ha chiuso sostanzialmente piatta, una certa attenzione sul settore del cemento. Cementiere ieri ha parlato di nuove acquisizioni allo studio. Italcementi ha appena annunciato, appena chiusa la borsa, l'accordo con Holcim per comprare due impianti negli Stati Uniti, e il titolo ha guadagnato l'1%, mentre per Buzzi si tratta di realizzi dopo due sedute che avevano portata ai massimi degli ultimi 13 mesi. Migliori e peggiori: Bion -19,6, Bioera -7,70, Axelero -5,50, Key Group -5,33. Migliori: oltre a Pininfarina, Innovatec +12,5, Sunshine Capital Investment +12,1 e Tech Value +10,42%. Grazie Andrea Fontana. Noi restiamo in tema di mercati, ma questa volta mercato del gas, perché ancora effetti non si sono visti, ma la notizia è di quelle che creeranno ulteriori tensioni. Mi riferisco al fatto che l'antitrust europeo ha accusato formalmente il colosso mondiale del gas russo Gazprom di abuso di posizione dominante per le sue pratiche commerciali in Europa centrale e orientale, con cui avrebbe attuato una politica dei prezzi sleale e avrebbe ostacolato la concorrenza transfrontaliera creando barriere artificiali. Se non si arriverà a un accordo, la società russa potrebbe essere costretta a pagare una multa fino a 14 miliardi di dollari, ossia il 10% di quello che fu il suo fatturato nel 2012. Ora, non sfugge a nessuno che questo rischio caschi in un momento in cui già Gazprom sta fatturando meno per via del prezzo del gas, che non si è mosso completamente come quello del petrolio, però da sempre segue, e la Russia comunque nella sua principale voce, di gran lunga la principale voce di entrate, cioè gas e petrolio, sta subendo, oltre all'embargo diciamo di altri prodotti, ai boicottaggio di altri prodotti per le sanzioni europee e americane, sta subendo anche un danno diciamo dal dimezzarsi dei prezzi del petrolio. La prima volta fu il settembre 2011, quando l'antitrust europeo fece perquisire una ventina di uffici di Gazprom in 10 paesi dell'est Europa, e l'indagine poi si è aperta nel 2012 e si concentrò su tre aspetti, appunto: ostacolare l'ostacolo alla riesportazione delle forniture, e poi il fatto che Gazprom legasse le condizioni contrattuali alla cooperazione in altre aree di business, cioè per esempio consentire la costruzione di un gasdotto se vuoi il nostro gas, e poi l'imposizione da parte di Gazprom di prezzi indicizzati del petrolio, con enormi disparità tra quanto viene chiesto di pagare a ciascun cliente. Facciamo un esempio: in Lettonia, dove ci sono poche alternative al gas russo, il gas costa il 30% in più che in Germania. Gazprom rappresenta il 70% della produzione russa di gas naturale, controlla da sola quasi un quinto di tutte le riserve mondiali di gas conosciute, e da quasi il 30%, un terzo del gas europeo arriva dalla Russia, con esportazioni pari a 153 miliardi di dollari, questo nel 2012, ossia, per chi vuole ama le cifre, 147 miliardi di metri cubi in Europa. Davide Tabarelli, buonasera. Davide Tabarelli, per chi non lo conoscesse, è il presidente di Nomisma Energia. Buonasera Tabarelli. Buonasera, grazie. Allora, ascoltiamo anche che cosa ha detto il commissario europeo alla concorrenza nell'annunciare pubblicamente le accuse a Gazprom. La nostra decisione di oggi è stata di dichiarare formale opposizione contro alcune attività di Gazprom che coinvolgono 8 diversi paesi: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Bulgaria. In alcuni di questi stati Gazprom è l'unico fornitore di gas. Quello che dichiariamo nella nostra accusa è che Gazprom sta abusando della propria posizione dominante. Gazprom ha adottato una strategia per segmentare i singoli mercati europei, applicando restrizioni territoriali nei propri contratti. Una delle misure adottate dalla compagnia sarebbe quella di vietare per contratto ai propri clienti la riesportazione di gas in altri stati dell'Unione. In questo modo Gazprom è in grado di praticare prezzi più alti in alcune nazioni, impedendo al gas di entrare da rivenditori di altri paesi dove i prezzi sono più bassi. Gazprom carica prezzi che riteniamo ingiustificati in 5 diversi paesi. Perciò ora aspetteremo la risposta di Gazprom in forma scritta, per la quale la società ha tempo 12 settimane. Ma a questo stadio della vicenda tutte le strade sono ancora aperte. Allora, Tamarelli, dove ci può portare? Mosca ha già respinto inaccettabili le accuse europee, nuove norme anche inaccettabili per i vecchi contratti, abbiamo aderito a tutte le norme della legge internazionale, ma possiamo veramente arrivare, diciamo, a un braccio di ferro sul gas? Ma è già in corso da tempo, era da anni ormai che si discute in maniera molto accesa tra Commissione europea e Gazprom sul mercato dell'est europeo in particolare. Tra l'altro il fatto che il grande progetto South Stream, che tra l'altro danneggiato la nostra Saipem, almeno in parte per il momento, è saltato proprio perché c'era una diversa visione su come dovevano essere le regole per questo nuovo gasdotto in Europa. Pertanto quello che sta accadendo ha peggiorato una situazione che era già molto difficile, però era nell'aria, di fatto i nodi vengono al pettine, però davanti dobbiamo risolvere questo problema della Gazprom, di questo operatore integrato che giustamente, come dice la stessa Gazprom, è un organo strategico della Russia, perciò che fatica a comportarsi come una semplice compagnia petrolifera in Europa, in particolare nell'est Europa dove esiste questo contenzioso, cioè non esiste qua da noi, non esiste in Germania o in Francia o in Italia. Volendo leggere qualcosa che non è solo negativo, applica la Commissione europea delle regole ad un operatore importante che si vuole che sia parte dell'Europa. Pertanto è un passaggio difficile questo, un momento difficile, fra l'altro con tutta la questione ucraina, ma che dovrebbe, una volta risolto, avvicinare Gazprom e la Russia di più all'Europa. Quindi diciamo, tu dici questo è un braccio di ferro, però insomma, Gazprom, se ho ben capito, obietta che non può cambiare e retrodatare, diciamo, operare sostanzialmente in maniera retroattiva sui vecchi contratti. La soluzione potrebbe essere per i nuovi contratti? Ma certamente loro hanno fatto delle cose diverse con i nuovi contratti, fra l'altro aspettando la lancia a favore della Gazprom ha ridotto molto i contratti, i prezzi sui contratti di corpay verso Germania e Italia, a nostro beneficio delle nostre società fra l'altro. Qua si sta parlando di vendita al mercato all'ingrosso in questi paesi dove loro proprio sono presenti sul dettaglio e sulle strutture di trasporto in Bulgaria. Perciò è una questione più da est europeo, tra l'altro coinvolge circa qualcosa come 40 miliardi di metri cubi, mentre alla parte occidentale arrivano più di 100 miliardi di metri cubi. E detto questo, esistono dei problemi sui nuovi contratti, certamente potranno trovare delle soluzioni, poi si parla di un massimo di oltre 10 miliardi di multa, come 10% del fatturato, in realtà è un'ipotesi estrema. La possibilità che si arrivi a qualche negoziazione, scontro nella Corte di Giustizia. È vero è che appare un po' sproporzionato il fatto che la Commissione prenda queste posizioni, certamente coerenti con le politiche di liberalizzazione e di apertura delle infrastrutture del trasporto, mentre la portata è di carattere politico, strategico, geopolitico, nazionale. E come dice secondo me giustamente Gazprom, queste vicende andrebbero anche discusse, non dico risolte, ma a livello di rapporti fra Bruxelles e Mosca, proprio di stati, di politica, ecco. Detto questo, io ripeto, vedo una cosa positiva anche qua in mezzo, cioè bisogna che la Russia faccia parte dell'Europa attraverso il suo operatore economico più importante, che è il Gazprom. Noi abbiamo bisogno del loro gas, il loro gas è sempre arrivato regolarmente, ce n'è tantissimo, i prezzi, come lei giustamente diceva prima, è uno dell'operatore che detiene più riserve vicino a noi, tra l'altro a costi molto bassi, che speriamo, ovviamente noi prezzi vorremmo che fossero più vicini ai costi possibili, però questo possiamo discutere. Ecco, litighiamo su questioni commerciali, questo dobbiamo tenerlo, ecco, sull'aspetto di un contenzioso commerciale. Speriamo che si mantenga, visto il clima dei rapporti Mosca-Bruxelles sul contenzioso commerciale. Grazie a Davide Tabarelli, il traffico. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Focus Economia. Le 9 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Di terremoto tra Calabria e Basilicata, colpita di nuovo anche l'Emilia, la terra trema ancora. Ancora non siamo in grado di dirvi di che intensità sia stata la scossa di terremoto, ve l'abbiamo raccontato 9 e un minuto, sentita proprio nel corso di questa edizione di GR24, epicentro però pare essere stato ancora in Emilia, lo ripetiamo, la scossa di terremoto è stata avvertita anche in Lombardia, Veneto e in altre regioni italiane. Are you with me? Are you with me? Come dimenticare quel GR a Radio 24, il GR delle 10, la voce di Anna Migliorati, 29 maggio del 2012, sulla seconda forte scossa che era avvenuta, appunto, come ricordava la collega, alle 9 del mattino. Non voglio ritornare su una tragedia che modestamente per la nostra piccola parte abbiamo seguito andando a trasmettere, a raccogliere fondi anche in loco. Uno dei distretti più colpiti fu quello del biomedicale, quindi l'area di Mirandola, su 57 comuni colpiti, mezzo milione di persone coinvolte, 27 vittime e 12 miliardi di danni. Ma dicevo, il distretto biomedicale di Mirandola, che fatturava 800 milioni di fatturato, 4 mila addetti, 100 imprese. Perché ne parliamo oggi? Perché ebbe dei danni stimati al tempo, da sole 24 ore, di 500 milioni di euro, e il distretto non ha mai smesso di operare, e tant'è che il sole 24 ore oggi giustamente celebra, se così si può dire, il fatto che sia tornato a pieno regime. Le esportazioni hanno ottenuto, sfiorato i 300 milioni di euro l'anno scorso, più 10%, il fatturato è tornato a 1 miliardo di euro, gli addetti sono anche aumentati, da 3.500 sono tornati a essere 4.000, sebbene soltanto il 17% delle imprese dell'area abbia ricevuto aiuti. Allora, ringrazio la collega Natascia Ronchetti, che ha raccontato per il Sole 24 Ore questa bellissima storia di un paese che non si lamenta e si rimbocca le maniche. Buonasera Natascia. Buonasera a voi. E grazie anche al padre che ha fondato il distretto del biomedicale nella zona di Mirandola. Mario Veronesi era un ex rappresentante dei medicinali ed ex farmacista, e ha creato nel 64, se non ricordo male, lo stabilimento della Sterilplast. Veronesi, buonasera. Buonasera, sono qua. Allora, mi dica una cosa, ma qual è stata la reazione che lei può testimoniare, visto che insomma dopo la Sterilplast lei l'ha trasformata in Dasco e poi anche con vari spin-off altre società, ma insomma lei ha vissuto tutto lo sviluppo di questo distretto. Mi racconti come avete fatto in questi 3 anni, prego. In questi 3 anni io non ho più lavorato. Cioè, certo, lei no. Io dal 2012 mi sono dimesso dall'ultimo incarico, che è stato presidente dell'ultima azienda che ho fatto, che si chiamava Starmed, e l'ho ceduto al gruppo, certo, inglese. Nel 2003? Nel 2003 l'ha creata e poi l'ha ceduta. L'ho creata insieme. Ma insomma è orgoglioso di questa, certo, di questa reazione? Sì, certo. Sono orgoglioso, senz'altro. di questa relazione. Se l'aspettava un recupero così breve? Perché... Sì, perché io conosco la gente di qua. Qui c'è gente che non molla. E quindi non ha mollato nessuno, perché gli aiuti dello Stato sono arrivati solo al 17% delle imprese dell'area. Io so, però le aziende grosse che sono il nocciolo del biomedicale mirandolese hanno percepito subito il rimborso dei danni subiti, in quanto erano tutte assicurate. Essendo multinazionali con dei contratti che valgono in tutto il mondo, erano tutte assicurate. Bene. E quindi i soldi li hanno incassati, hanno potuto fare dei lavori. Anzi, le dirò che il terremoto in certi casi è stato anche una scusa per giustificare degli ampliamenti. Non è così che si devono fare gli ampliamenti, ma ho capito, hanno preso l'occasione per... Hanno preso l'occasione per dire, a me è andato giù un caponone da 1000 metri, però intanto che ci sono, intanto che devo muovere questo tipo di produzione, lo faccio più grande, perché così sarà sufficiente anche per l'immediato futuro. Allora, Natascia, tu hai fatto un viaggio che racconti oggi su Sole 24 Ore. Non è sorpreso Mario Veronesi, perché conosce i suoi concittadini, i suoi imprenditori, dipendenti, operai, però insomma noi che li conosciamo meno, la sorpresa la vediamo tutta, perché insomma, in 3 anni da un terremoto del genere tornare ai livelli precedenti il terremoto, complimenti, bravi, un modello per tutti. Natascia? Beh, sì, è certamente vero quello che ha detto il dottor Veronesi, cioè che quella gente che non molla. Certamente vero anche che c'è stata una gara di solidarietà che ha coinvolto tutti, gli imprenditori verso i dipendenti verso gli imprenditori. È vero che soprattutto le aziende più grandi hanno ricostruito immediatamente facendo leva sulle assicurazioni, ma è anche vero che tante aziende si sono rimboccate le maniche con l'autofinanziamento o con delocalizzazioni temporanee. Certamente la produzione non è praticamente mai stata interrotta. Subito dopo il trauma del terremoto sono state realizzate tensostrutture, sono state fatte delle delocalizzazioni, ma la produzione e la commercializzazione dei prodotti non si è praticamente mai fermata. E questo, diciamo, la dice lungo su come poi si sia arrivati a ricostruire. Natascia, in questo, cioè, tu certifichi nel tuo articolo di oggi praticamente una ripresa completa, anche gli addetti sono tornati al livello di 4.000 che era precedente terremoto? Certo, perché il terremoto, a un certo punto nel mio articolo cito anche l'editore del periodico del cluster, il quale dice siamo più forti di prima, ed è vero perché in qualche modo è stata anche un'occasione il terremoto. Certo, avremmo preferito che non ci fosse stato, ma è stata un'occasione perché ha rimesso in moto un ciclo di innovazione che ha fatto sì che si lavorasse ancora di più sulla ricerca e sviluppo, si lavorasse ancora di più sugli ampliamenti produttivi e si rafforzasse i presidi anche oltre i confini all'estero, e questo è dimostrato dagli ultimi dati, quel 9,7%, cioè quasi 10% che hanno registrato nel 2014. Prego, allora Mario Veronesi, devo chiudere, però la pregherei per quello che vale di portare tutto il nostro ringraziamento a tutti i suoi concittadini, imprenditori, ripeto, operai, dipendenti, per quello che avete fatto. Ho capito che c'era l'assicurazione, c'erano un po' di aiuti, ma sostanzialmente l'avete fatto voi e le maniche rimboccate erano le vostre. Bravi, abbiamo bisogno, lo dico senza retorica, non me ne frega un cavolo della retorica, però c'è bisogno in questo paese di raccontare anche storie come queste, che servono di modello anche altre aree di questo paese. Grazie, in bocca al lupo a Mario Veronesi, a Natascia Ronchetti. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.